qui a cercarti. Una ragazza ricciolina è appena andata via. Ho capito al volo, sono corso per strada, infatti tu eri lì. Sei venuta a cercarmi, è la dimostrazione che tu ancora mi vuoi. Sei uscita dal lavoro prima del solito. Hai pensato di vedermi e sei venuta qui. Proprio non ci speravo, ma che bello vederti, resta ancora un po'. Sei venuta a cercarmi, è la dimostrazione che tu ancora mi vuoi. Ti incammini ed io ricordo.